questa biblioteca Claudio Augusta ogni lunedì e talvolta anche il giovedì sera organizza degli incontri per favorire la lettura, la conoscenza dei libri, soprattutto quelli legati al territorio per vari motivi. Possono essere di contenuto oppure semplicemente anche perché l'autore stesso vive o ha vissuto nella nostra terra. Questa volta è la serata di Ivan Angermayer, Moglie del Signor Latino, quindi una frequenza che noi già, una signora che conosciamo, già abbiamo imparato a conoscere negli anni perché frequenta la nostra biblioteca e ha dato questa volta anche un contributo con i suoi racconti. Siamo particolarmente contenti di ospitarla qui. Saluto anche il professor Eugen Galasso, che non si tira mai indietro quando si tratta di promuovere la narrativa, la poesia del nostro territorio e ci dà sempre una mano nella moderazione. Ed infine, come non dimenticarci di Patrizio Zindaco e della signora Laura, ecco, che ci accompagnano nella lettura e daranno voce e corpo al testo e ai pensieri di Ivana Angermayer. Vi auguro una buona serata e vi ricordo che se avete piacere di essere informati circa le nostre iniziative, le nostre attività, che ricordo sono tutte gratuite perché la biblioteca ha una struttura che prevede l'accesso libero e indiscriminato, ecco, agli spazi e ai mezzi che mettiamo a disposizione. Basta semplicemente iscriversi, è una pratica che si svolge velocemente e gratuitamente e in questo modo sarete informati tempestivamente di quello che organizziamo ogni settimana. Cedo la parola ai nostri due ospiti e vi ringrazio ancora dell'attenzione. Io allora ringrazio ancora in particolare, ecco, naturalmente la dottoressa Trevisan per quanto ha già detto e ringrazio la dottoressa Trevisan per quanto ha già detto e doppiamente Franco Latino come instancabile organizzatore della ASA e promotore, diciamo, editore della LACMA e naturalmente, ecco, nella doppia veste anche in questo caso di marito di Ivana Angermayer che ecco, noi conosciamo come pittrice e in questa occasione però vorrei ricordare che le copertine dei libri LACMA sono di Ivana Angermayer, questo anche diciamo oltre che pittrice anche illustratrice. Ecco, io quando ho saputo che appunto erano diciamo in cantiere, ma erano in realtà già scritti, si trattava di rivederli da parte dell'autrice dei racconti, ho detto sì, sarà qualcosa di interessante. Leggendoli, poi così ho scritto anche una breve prefazione, mi sono reso conto del valore di questi racconti, in quanto diciamo oltre a avere questo valore in più, questo senso in più che ha il pittore notando certe cose, ci sono anche degli aspetti nella scrittura, io lo segnalo ora così in modo più sintetico, poi sentirete dalla voce dei nostri amici attori, lettori, delle particolarità, no? Leggendo appunto i racconti. Quindi c'è un occhio particolare che l'artista visivo ha e voi sapete che la tradizione, diciamo, dei pittori che hanno scritto, forse più degli scrittori che hanno anche, diciamo, prodotto arte. Adesso poi la distinzione è un pochino è un pochino difficile in certi casi, in certi autori surrealisti, non so, Picabia o Picabia, che dir si voglia, per esempio, ci sono entrambe, proprio fin dall'inizio, entrambe le possibilità di scrittura, la scrittura visiva e quella grafica. Poi però abbiamo un ampio numero di artisti che si sono cimentati con la parola. Adesso vedo un'amica che è anche nostra, diciamo, amica come Asa, come Latmark, che è presente in sala, che rappresenta tutte e due le, diciamo, fin dall'inizio entrambe le scritture. Ed è Alba Giampiccolo, la vedono in fondo alla sala, perché si nasconde un po', ma insomma, ecco, ecco, in Alba fin dall'inizio si danno queste diverse. In Duana probabilmente era rimasta un po' latente la scrittura, latente non perché evidentemente non ci fossero i testi, ma perché qualche volta si ha pudore, si ha così, qualche problema a dare ad extra le proprie cose, e lo si ha comunque, al di là del fatto che si siano pittori, scultori o scrittori. Dicevo, c'è tutta una lunga tradizione, adesso è inutile che vi faccia, oltre ai due nomi che ho già fatto, c'è tutta una serie, non poi enorme, di personaggi che si sono cimentati appunto nelle due creazioni, nelle due poietiche, no? Il poie in greco vuol dire il creare, da cui deriva poesia. Ma il creare evidentemente è del pittore, è dello scultore, eccetera, no? È dell'artista visivo, non so, nella computer grafica, nell'autore teatrale, nel regista teatrale, nel regista di cinema, nel fotografo in certi casi, eccetera, no? Qui avremmo tutto. Nell'ambito della musica io non lo dico neppure, perché per me è la musique d'abord, no? Con Verlaine, la musica per me è tutto. Dicevo, da Michelangelo, i cui sonetti sono straordinari, a Picasso con le sue creazioni, sia teatrali sia ai frammenti poetici, Salvador Dalì, che scrisse moltissimo oltre a produrre, e interessante è probabilmente rimanere proprio su Michelangelo. Loro sanno Michelangelo scultore, e all'epoca, qui c'è anche l'amico Rossaro, no? in sala, pittore e anche scultore, mi pare, in certi casi, no? È fatto anche scultura, è qualcosa di sì. Ecco, diciamo, Michelangelo parte come scultore e architetto in senso ampio, che ha senso berniniano, diciamo, rinascimentale del termine, poi notoriamente affresca la Sistina, un'opera colossale, no? Un'operazione colossale che era stata commissionata. Io mi sono trovato qualche, forse mezzo anno fa, confrontato con questa problematica a proposito di un intervento di una collega su una rivista, la committenza, ma insomma, se la committenza era come quella per cui Michelangelo in poco tempo fu costretto ad affrescare la Sistina, però ne venne fuori, come sanno, un qualcosa di assolutamente splendido, E parallelamente non sappiamo esattamente i tempi, o meglio, si intrecciano, diciamo, con le creazioni scultoree e anche con gli affreschi, diciamo, Michelangelo scrisse appunto i sonetti. Poi ci sono appunto straordinari esempi, e qui insomma i nomi sarebbero soprattutto però attribuibili al primo Novecento, anche italiano, no? Con delle sorprese anche molto interessanti. Io però volevo farne un altro esempio geograficamente più vicino a noi, cioè il bellunese Dino Buzzati. Dino Buzzati, oltre alla produzione poetica, è ristretta, però c'è. I romanzi e i racconti sono noti a noi tutti, però diciamo l'opera pittorica di Buzzati non è trascurabile, è un'opera assolutamente da vedere. Se c'è l'occasione, qualche anno fa c'è stata a Milano, mi pare, una mostra abbastanza significativa. L'ho vista solo indirettamente, confesso, ma comunque ecco, sono occasioni da non perdere quando queste proposte vengono fatte. Tornando, come si suol dire, a bomba, nel senso della persona in questione, Luana Angermeyer, ecco, aveva i classici racconti nel cassetto e finalmente si è deciso, possiamo pur dirlo, a dare questi racconti all'Extra, dandoli alle stampe. Ora appunto li sentiremo. Qualche osservazione generale. Ecco, la capacità che ha l'artista Angermeyer, possiamo dirlo nel doppio senso, nel plurisenso, io preferisco questo, di dare le esperienze desunte della propria vita e anche, credo in qualche caso, qualcosa di sentito o di letto, no? Nel caso del mostro, io spero che non ci sia un'esperienza di un'amica o altro che ha subito questo, perché sarebbe troppo duro, no? Sarebbe troppo, francamente, pesante, proprio pesante nel senso delle tacche esistenziali che noi ci portiamo dietro, perché è vero che insomma tutte le ore feriscono, eccetera, però insomma meglio farsi ferire in modo un po' più leggero, ecco, rispetto a certe esperienze, meglio così diffidarne. E a proposito, mi dilungo un attimo per questo racconto, ecco, questo appunto che si chiama Il Mostro, che trovano, mi sembra sia il penultimo, ultimo, l'ultimo, grazie, ecco, l'ultimo racconto, anche in ordine di proprio insomma, nel libro, nella scansione dei racconti, è l'ultimo. E cosa si può dire? Perché l'esperienza è abbastanza traumatica, per quello dicevo, la capacità lieve, e in questo caso io diffido sempre della scrittura al femminile, perché allora qual è la scrittura al maschile? La scrittura al maschile allora dovrebbe essere qualcosa di, non so, secondo gli stereotipi, di particolarmente vigoroso, eccetera. Allora personalmente, insomma, le mie piccole cose mi ritrovo nel femminile, non nel maschile, perché non ci sono queste caratteristiche. Io credo in realtà che siano stereotipi, no? Quale semmai la capacità della scrittura al femminile? Poi mi diranno se sono d'accordo, mi dirà anche Luana se è così. Io direi la capacità di osservare, la capacità analitica. Lo si nota in quando non solo si visita una mostra o si legge un libro o si commenta qualcosa di particolare, la capacità che spesso la donna e che all'uomo in genere manca di vedere anche i particolari senza perdere di vista l'insieme. Non so se siano d'accordo, ma in genere gli esempi possono essere i più vari, no? Ma dalla tappezzeria di un luogo, per dire, al notare certi particolari, non so, la disposizione dei fiori, la disposizione dei... Ecco, è una capacità in qualche modo rabdomantica, non nel senso del rabdomante che individua, lo sappiamo, no? L'acqua, anche magari appunto nel sottosuolo dove non ci sono particolari possibilità per un'altra persona di individuarla, ma la capacità di notare appunto certi particolari, siano cromatici o siano riguardo alle forme, che spesso all'uomo non balzano, diciamo, subito alla mente o alla vista, no? Ecco, la capacità anche di un miglior coordinamento, beh, in questo caso non diremo oculomotorio, ma diciamo oculoverbale, nel senso che dall'osservazione alla descrizione. Se questo si fa scrivendo, naturalmente c'è una marcia in più, e questa marcia in più, tra l'altro, in Luana Angermayer c'è. Un linguaggio estremamente semplice, estremamente direi essenziale, il che però non toglie nulla. Fra l'altro, anzi, quella di Luana Angermayer è una scrittura agevole nel senso della lettura, agile, cioè non ci sono frasi lunghissime, piene di proposizioni subordinate, come si dice, ipotattiche, no? Cioè appunto dove la... ma prevale appunto la paratassi, quindi proposizioni principali, proposizioni coordinate. Spesso, ma non troppo spesso, l'ho fatto rilevare, mi pare, anche scrivendo, c'è anche c'è il discorso diretto, però ecco, il discorso diretto non soppianta la narrazione. Noi spesso troviamo dei testi dove siano romanzi, siano racconti, dove è tutto un discorso diretto, no? Se leggiamo, non so, è anche il caso dei Cannibali, non so se vi ricordate i cannibali, gli anni 90, i primi anni 2000, però ecco, qui invece la narrazione c'è e il discorso diretto non viene a essere prevalente, diciamo, rispetto a quello indiretto, rispetto alla narrazione. Quindi c'è anche un equilibrio delle parti. I temi quali sono? Ma io mi riservo di parlarne dopo, ma sono veramente, ecco, per usare un'espressione celebre e ormai invalsa, sono le cose della vita. Le chose de la vie, no? Un famoso film di 15 anni fa circa. Ecco, questo... direi veramente, guardate che è difficile narrare, esprimere in un racconto qualcosa che appartiene alla vita o nostra o anche di altri, in cui in qualche modo abbiamo partecipato, cui abbiamo partecipato perché l'amico, l'amica, il conoscente o chi vi era in qualche modo coinvolto. È difficile perché in genere si cerca dell'altro, cerchiamo diciamo dimensioni così particolari o vicende che in qualche modo abbiano attirato in modo particolare la nostra attenzione. Quando si tratta di fare mente locale, scrivendone però, non in una narrazione orale, di un qualcosa di vissuto o cui appunto abbiamo partecipato direttamente o indirettamente, le cose diventano più difficili. Non è un diario, perché qui non c'è nulla di diaristico o di autobiografico, o meglio, ci sono esperienze vissute, ma sono esperienze poi inserite in un quadro narrativo che è diverso. E sono quindi le cose quotidiane appunto della vita, poi nulla è, tutto è quotidiano volendo, perché notoriamente noi sappiamo, no? La vita si dice non faccia regali, ma anche quando li fa ce li fa come sorprese, no? E quindi naturalmente ci troviamo sempre di fronte a qualcosa di nuovo, l'imprevisto è dietro l'angolo, no? E questo insomma, sono anche espressioni abusate, quindi ne prescendo, ma quando c'è un qualcosa che ci sembra più consueto, è difficile parlarne, eh? È difficile parlarne, quindi ci vuole anche notevole abilità, in particolare in questo caso, io non mi dilungo, appunto, avevo già promesso di smetterla nella prima tranche, prima, e ho un pochino protratto i tempi, me ne scuso, e dicevo... Che cosa succede? Che trattando di temi tra virgolette quotidiani si rischia di fare del giornalismo. Questo rischio nei racconti di Loana Angermayer non si corre assolutamente, ecco. Perché appunto la narrazione è strutturata in modo per cui si legge come si usa dire, con diletto, senza così perdersi morbosamente o meno con dei particolari, nei particolari e sui particolari. Voglio dire, la vicenda ha una sua compiutezza nel racconto, dove diciamo poi le singole parti sono da udire, ma appunto senza rimanere in qualche modo impigliati nei particolari, perché questo è sarebbe una narrativa che non interessa. E fra l'altro, ecco, a proposito del racconto che ho citato, ma anche di un altro racconto, La polveriera, non c'è il rischio di finire nella cronaca, ma neanche nella cronaca nera o diciamo nella narrazione tipo giallo, come si dice nella tradizione italiana, o nero, noir, no? Come nella tradizione francese, o il polar, insomma, o altre cose, la grande tradizione anche americana e inglese del giallo. Questa viene bypassata con grande intelligenza. Ecco, questo devo dire. La sposa. Serena, nel suo abito da sposa bianco, era bellissima. Si guardava allo specchio, sorrideva felice. Il giorno tanto atteso era giunto. Sua madre la guardava con tenerezza. La sua bambina era diventata donna. Un discreto bussare alla porta. «Avanti!» disse la madre. Nel suo abito scuro entrò suo padre, con un fiore all'occhiello, e con un sorriso le disse: «Sei pronta? È arrivata la macchina per portarci in chiesa!» Davanti alla chiesa del Sacro Cuore, una folla di amici aspettava la sposa. Aldo, il futuro sposo, Impacciato ed emozionato, camminava avanti e indietro sul piazzale, stringendo le mani ai suoi invitati. Arrivò Leo, il suo migliore amico, lo abbracciò con affetto, si conoscevano dall'infanzia. Lo guardò fisso negli occhi e gli dette una pacca sulla spalla. «È giunta la tua ora», gli disse sorridendo. «Ecco la sposa, sta arrivando», gridò un invitato. Serena scese dalla macchina. Aldo le andò incontro con un bouquet di rose bianche. «Sei bellissima, tutti mi invidieranno». Cominciarono ad entrare in chiesa. La sposa restò fuori con il padre per entrare poi al suono della marcia nuziale. Al braccio del padre, Serena, tipica bellezza siciliana, fa ingresso nella chiesa. Il genitore la accompagna all'altare e verso Aldo dice: «Te la affido». Fu un matrimonio sfarzoso. Un'orchestrina suonava tanghi e valzer. Gli sposi aprirono le danze e fu festa fino a sera. Partirono in viaggio di nozze per la Grecia. Abbracci, saluti, finalmente soli. L'hotel che li ospitava era veramente elegante, fiori nella stanza, servizio accurato, un grande letto con il copriletto di raso rosso. Stanchi ma felici gli si buttarono sopra. Aldo le diede un bacio sulla fronte e le disse: «Dormiamo, Serena, domani ci aspetta una bella giornata». La ragazza lo guardò sorpresa, si aspettava una notte d'amore, rimase male. L'aveva sempre rispettata quando erano fidanzati, questo lo aveva apprezzato, ma ora era sua moglie. Si girò e si rigirò nel letto. Aldo, accanto a lei, si addormentò immediatamente. Serena si girò di schiena, chiuse gli occhi e, delusa, si mise a dormire. Gli svegliò il sole che entrava dalla finestra, si presentava una bella giornata. Aldo con allegria disse a Serena: «Buongiorno dormigliona, dai, vestiti che andiamo a fare colazione, poi andremo in piscina, ho voglia di farmi una bella nuotata». Scesero nel ristorante, una sala con tavolini apparecchiati con tovagliette rosa. Venne il loro incontro un cameriere che li accompagnò al tavolo. Accanto a loro c'era una coppia di giovani sposi. Il giovane si rivolse ad Aldo: «In viaggio di nozze anche voi?» «Sì», rispose Aldo. Si presentarono e decisero di andare in piscina insieme. La ragazza si chiamava Milva, una chiacchierona che riuscì a far sorridere Serena. Gli raccontava di come aveva conosciuto suo marito, che loro erano di Torino e che erano sposati da 4 giorni. Serena disse: «Noi siamo arrivati ieri sera ad Agrigento». «Allora immagino le follie di questa notte! Sembrate ben riposati!» E Serena guardò la ragazza che sprizzava felicità e si limitò a sorridere. Durante il giorno e fino a tarda sera i 4 giovani si divertirono. Dopo la discoteca si salutarono e si ritirarono ognuno nelle loro camere. Aldo, come la notte precedente, le sfiorò le labbra, si girò di schiena e si addormentò. Serena non riusciva a capire il comportamento del marito, avrebbe voluto chiederle il perché, ma per timidezza e pudore non disse nulla. Aldo era molto gentile con lei, premuroso le portava il gelato o una bibita. La notte, però, lui dormiva. Serena insonne lo guardava. Era bello Aldo, con un bel fisico. Pensò: «Ma perché non mi cerca? Perché non mi vuole? È forse colpa mia?» Erano già trascorsi 6 giorni dal loro arrivo ad Atene. Ancora 2 giorni e finiva il loro viaggio di nozze. «Bella luna di miele! Torno a casa vergine! Chissà cosa dirò ai miei genitori, alle mie amiche che curiose vorranno sapere com'è andata! Come posso dire a mia madre che non mi ha toccata, che abbiamo vissuto come sorella e fratello?» Serena era triste, delusa, non si aspettava questo dal suo Aldo. Giorno di partenza, nulla era cambiato. Arrivati ad Agrigento, mamma e papà corsero loro incontro felici del loro ritorno e curiosi di com'era stato il viaggio. Aldo sorridente: bellissimo, la Grecia è stupenda, pensate che abbiamo fatto amicizia con due sposi di Torino, ci siamo tanto divertiti con loro, vero Serena? Sì, molto, rispose la moglie a bassa voce. I genitori li accompagnarono alla loro nuova casa, piccola ma graziosa. Soli i due giovani si guardarono intorno un po' a disagio. Serena, per spezzare quel silenzio, disse: vado a farmi una doccia. Trascorsero alcuni giorni, nulla cambiò. Alle sue amiche mentiva, raccontava fantasie, che Aldo era meraviglioso. Non voleva essere la favola di tutti gli amici. Un giorno, a cena dai genitori di Aldo, la madre lanciò una battuta: quando ci farete, nonni? Serena stizzita: non credo che sarà possibile. Intervenne Aldo, guardando la madre, che era rimasta sorpresa dalla risposta della nuora: siamo giovani, c'è tempo, mamma. Serena era diventata taciturna, non era nel suo carattere, le amiche glielo fecero notare. Rosetta, amica del cuore, sentiva che era cambiata e le chiese: c'è qualcosa che non va, ti vedo silenziosa, strana. No, va tutto bene, rispose Serena, solo che tra lavoro e casa sono un po' stanca. Veniva spesso a trovarli il loro amico Leo e si fermava a cena. Erano momenti di allegria per Serena, il giovane era sempre allegro e scherzoso. Un giorno la ragazza, non potendone più, apostrofò al marito: ma perché mi hai sposata? Lui la guardò impacciato, restò per un momento in silenzio, si aspettava quella domanda e calmo rispose: perché ti voglio bene. Dici di volermi bene, ma non fai il marito, non mi hai mai toccata, sono partita vergine e così sono tornata. Il sesso per me non è importante, perché non stiamo bene insieme, usciamo con gli amici, ci divertiamo, ma cosa vogliamo di più? Serena lo guardò e in silenzio uscì dalla stanza, si gettò sul letto e pianse, pensò: ma proprio a me doveva capitare un uomo così, come faccio a dirlo ai miei genitori? Un giorno al lavoro si sentì male, chiese di andare a casa, aprì la porta, entrò, sentì le voci di Aldo e Leo che ridevano e pensò: per fortuna c'è un po' di allegria. Andò verso le voci, provenivano dalla camera da letto. Aprì la porta e ciò che vide la lasciò impietrita. I due giovani erano a letto insieme. Quando la videro sbiancarono e rimasero senza parole. Serena chiuse la porta, si piegò su se stessa come avesse ricevuto un pugno nello stomaco e pensò: vigliacco, come hai potuto farmi questo? Ferita dall'inganno, uscì di corsa di casa, si avviò verso la villetta dei suoi genitori. La madre la vide in lacrime e le chiese: ma cosa è successo? Entra in casa, raccontami tutto. Avrà litigato col marito, pensò. La prima volta si corre sempre dalla mamma. Serena raccontò tutta la storia, dall'inizio fino al momento della scoperta che suo marito era un omosessuale. Vedendo la madre ammutolita, che la guardava come non credesse alle sue parole, disse: mamma, cosa devo fare? Ti prego, aiutami. La madre si riprese, abbracciò la figlia e pianse con lei. Svuotata di ogni energia, disse: aspettiamo papà e decideremo che fare. Dopo qualche ora arrivò il padre, vide le due donne sconvolte e guardò la moglie con sguardo interrogativo. La donna, tra le lacrime, raccontò quello che era successo alla figlia. L'uomo diventò rosso dalla rabbia e esclamò: io lo ammazzo. Madre e figlia lo fermarono sulla porta. Ti prego, disse la moglie, non facciamo uno scandalo, ci rimetterebbe Serena, sarebbe sulla bocca di tutti i parenti e gli amici. Il marito: ma secondo te gliela dovremmo far passare liscia? No, si merita una lezione. Intervenne Serena: ci vendicheremo in un altro modo. Vai da tuo fratello Luciano e lo fai licenziare, così si troverà senza lavoro. E poi lo lascerò e dirò alle amiche e tutti i parenti che non era l'uomo che pensavo. Partirò, andrò da zia Maria per un po' di tempo. Mi passerà questa delusione, lontano da qui. Mi sentirò sicuramente meglio. E forse un giorno troverò un altro uomo che si meraviglierà di trovare una donna sposata ancora vergine. La polveriera. Il maresciallo Bruno Baresi si avviava verso casa in bicicletta, pedalando lentamente. Era preoccupato. Gli avevano appena comunicato il suo trasferimento a Caldaro Caltern, in provincia di Bolzano. Non sapeva come avrebbero preso la notizia la moglie Anna e i suoi figli Giulio e Sandra. Mentre saliva le scale, gli giunse un profumo di dolce. Pensò: Anna ha fatto la torta. Il cane abbaiò. Aveva sentito il passo del padrone. Come entrò in casa, gli andò incontro facendogli le teste. Anche Anna lo abbracciò, si volevano molto bene. Bruno si sedette sulla poltrona, prese la moglie per un braccio e l'avvicinò verso di sé, facendola sedere sulle sue ginocchia, e le disse: ti devo parlare. È una notizia che non ti farà piacere, ma purtroppo questo è il mio lavoro. Mi hanno trasferito lontano da Lecce, in Alto Adige, sui Tirol. Anna, sorpresa, lo guardò e disse: ma così lontano? Mi dispiace, ci eravamo fatto degli amici e sistemato bene la casa. Chissà come la prenderanno i ragazzi questa partenza. Il cane abbaiò scodinzolando allegro. Giulio e Sandra erano ritornati da scuola. Che buon profumo di torta, disse Giulio. Sandra intanto giocava con il cane di nome Zazà. Era un animale molto intelligente. Gli mancava solo la parola. I due ragazzi, durante il pranzo, si accorsero che i loro genitori erano silenziosi. Giulio chiese alla madre: c'è qualcosa che non va? Rispose il padre: sì, purtroppo sono stato trasferito. Mi dispiace, figlioli, ma dobbiamo partire tra pochi giorni. Sandra intervenne: e la scuola? Le mie amiche? Non voglio lasciarle. Il fratello, 17enne, maggiore di lei di 2 anni, scocciato le disse: non fare la sciocca. Perché? Che cosa faresti qui da sola? La ragazza, sbattendo la porta, si ritirò in camera sua. Anna, il giorno dopo, cominciò a impacchettare con la carta di giornale bicchieri, tazzine e piatti. Bruno, insieme ai ragazzi, mettevano negli scatoloni abiti e tutte le cose personali. Giulio chiese al padre com'era il posto dove stavano andando. Egli rispose: è una polveriera, vicino a un lago a 5 chilometri dal paese di Caldaro. Non so altro. Fecero venire un camion e caricarono tutti i mobili e i vari scatoloni per spedirli nella nuova casa. Una villetta nella polveriera, messa a disposizione per il nuovo comandante. Partirono il mattino presto. Il viaggio fu lungo. Arrivarono a Bolzano e si fermarono la notte per ripartire il giorno dopo con un trenino chiamato La Vacca di Caldaro. Arrivati nel paese, dissero loro che per arrivare alla polveriera non c'erano mezzi pubblici per raggiungerla. Un uomo del posto si offrì di accompagnarli con l'auto. «Vede, maresciallo», disse l'uomo, «il paese è piccolo. Per andare verso il lago bisogna farsela a piedi». Anna e i figli si guardarono in faccia, come a chiedersi dove erano arrivati. La villetta era spaziosa. Zazà annusò la nuova casa, ispezionando le stanze. Intorno c'erano prati, vigneti, alberi di mele. A poca distanza un lago suggestivo. Il camion con i mobili era già arrivato. Si dettero da fare a scaricarlo con l'aiuto delle guardie della polveriera. Non c'erano militari, ma solo civili. Il primo problema venne quando seppero che a Caldaro c'era solo la scuola elementare. Per frequentare gli studi i ragazzi dovevano recarsi con il trenino a Bolzano. Tutti i giorni facevano 5 km a piedi, poi in stazione prendevano la vacca di Caldaro che li portava a Bolzano. Anna si ammalò e dovettero portarla all'ospedale in città. Bruno lasciava spesso il posto di lavoro per andare a trovarla. Un giorno venne un'ispezione dal distretto militare mentre si era recato a Bolzano a trovare la moglie gravemente malata. Non trovandolo, venne punito con il trasferimento in un'altra polveriera a Ponte Adige, a pochi chilometri da Caldaro, sempre in provincia di Bolzano. Vi fu un altro trasloco, un'altra casa più vicina alla città, ma per i ragazzi non cambiò nulla. Anche da lì c'erano 5 chilometri da fare a piedi e prendere sempre lo stesso trenino che veniva da Caldaro. Dopo 20 giorni che si erano sistemati nella nuova villetta, un pomeriggio, verso le 4, si sentì un terrificante boato, un rimbombo che fece tremare i vetri. Uscirono all'aperto per capire cosa era successo. Si seppe che era esplosa la polveriera di Caldaro. Erano morti tutti, il nuovo maresciallo e le guardie. Papà Bruno guardò la sua famiglia e ringraziò Dio per quella punizione che aveva loro salvato la vita. Finalmente Bruno riuscì a farsi trasferire al distretto militare di Bolzano. Furono contenti, soprattutto Giulio e Sandra, che così erano più vicini a scuola. La vita in città era molto diversa dal tranquillo paese, soprattutto per i ragazzi, che conobbero nuovi amici. Sandra, ad una festa con le amiche, conobbe un giovane e cominciò la sua prima cotta giovanile. Giulio si legò ad un gruppo di giovani, andavano in discoteca, festini in casa di amici, e fu appunto in una di queste feste che conobbe Gino. Gli fu subito simpatico e cominciarono a frequentarsi. Quel giovane aveva sempre in tasca molti soldi. Un giorno Giulio gli disse: «Beato te che ti puoi comprare tante cose, io purtroppo finché non lavorerò non me lo posso permettere». Gino lo fissò, gli mise una mano sulla spalla e gli rispose: «Se vuoi, anche tu puoi avere del denaro senza aspettare di lavorare». «Come?» chiese il ragazzo guardandolo con interesse. «Conosco una persona che ti può dare lavoro. Basta che porti un pacchetto a un certo indirizzo e ti pagano bene». «Cosa c'è nel pacchetto per pagarti così bene?» «Che ti importa? Tu lo porti e basta, e ti pagano». Giulio aveva capito che si trattava di droga. Ecco perché Gino aveva tanto denaro. La sera Giulio nella sua stanza pensava: «Potrei farlo una volta sola. Qualche soldo mi farebbe comodo». Era tentato. Ci pensò tutta la notte. Poi decise che per una volta si poteva fare. L'indomani disse all'amico che lo avrebbe fatto. Gino lo presentò ad un uomo dai capelli neri, dalla faccia losca, e si misero d'accordo che lo avrebbe chiamato lui al telefono. Dopo un paio di giorni venne chiamato. Si incontrarono. Gli diede un pacchetto e gli disse dove consegnarlo. Giulio, quando fu solo, lo rigirò fra le mani, era un po' preoccupato, ma poi pensò: «Che vuoi che se ne accorga? È anche piccolo». Si recò all'indirizzo. Suonò al campanello. Venne ad aprire un uomo grasso e sudato, poco gradevole. Lo guardò dritto negli occhi e gli chiese: «Che vuoi?» «Mi manda Carmine. Ho qualcosa per lei», disse, e gli consegnò il pacchetto. L'uomo lo prese, lo appoggiò sul tavolo, andò in un'altra stanza e ritornò con una busta che dette a Giulio: «Adesso vattene e non farti notare». Appena fu solo, il giovane guardò nella busta. Quanti soldi gli avevano dato? Erano molti di più di quelli che si aspettava. Pensò: «In fondo è stato facile. Non ho fatto altro che portare un pacchetto». lo fece altre volte. Con il denaro che prendeva poteva soddisfare alcuni suoi desideri, abiti firmati, divertimenti. A casa si inventò di aver trovato un lavoretto per le sue spese personali. «Bravo!» disse papà Bruno. «Anch'io, quando studiavo, per spesarmi avevo trovato un lavoretto presso un meccanico». Sandra un giorno venne a casa da scuola e non volle pranzare. Si chiuse in camera sua, si gettò sul letto e scoppiò a piangere. La sua storia d'amore era finita. Il suo ragazzo l'aveva lasciata per un'altra compagna di scuola. La madre andò da lei e, dopo aver saputo il perché piangesse, carezzandole i capelli, le disse: «Non te la prendere. Alla tua età sai quanti ragazzi conoscerai ancora. Morto un papa, se ne fa un altro». Giulio continuava a portare i suoi pacchetti. Si era messo da parte un bel gruzzoletto. Un giorno, mentre scendeva le scale dopo una consegna, venne fermato all'uscita del portone da due uomini. Lo caricarono con forza in macchina, lo portarono in un posto deserto e lo picchiarono selvaggiamente. Lo lasciarono lì, malconcio e sanguinante. Ma prima di andarsene gli dissero: «Riferisci a Carmine di non invadere la nostra piazza, altrimenti sarà guerra tra di noi». Giulio, con molta fatica, riuscì ad alzarsi, arrivare sulla strada e chiedere ad una macchina un passaggio per la città. Arrivò a casa, salì di corsa le scale, non voleva farsi vedere così malconcio dai suoi familiari. Mentre cercava di andare diretto nella sua camera, Zazà cominciò ad abbaiare e la madre uscì dalla cucina. Quando lo vide in quelle condizioni lanciò un grido. Bruno, sentendo gridare Anna, uscì dalla camera per vedere cosa era successo. Appena vide Giulio sanguinante pensò ad un incidente e gli chiese cosa fosse accaduto. Lo portò verso il bagno per pulirgli il viso dal sangue. Mentre lo puliva con un asciugamano bagnato, capì dalle ferite che era stato picchiato. Bruno, preoccupato, chiese: «Ma chi ti ha ridotto così?» Gli rispose: «Sono caduto». Il padre capì che stava mentendo e, fissandolo in viso, gli disse: «Ragazzo, non raccontarmi storie. Queste sono botte. Adesso mi dici la verità». Giulio inventò che si era picchiato con un suo compagno di scuola. Bruno non era tanto convinto della versione del figlio. Gli disse: «Vieni, andiamo a medicarti in ospedale. Vediamo se hai qualche frattura al setto nasale». «No, no, non c'è bisogno», replicò il giovane, «sto bene». Aveva paura che gli avrebbero fatto delle domande. Il giorno dopo, quando Giulio uscì, Bruno andò a frugare nella camera del figlio. In un cassetto trovò una busta. Vi guardò dentro. C'era parecchio denaro. Rimase sbalordito. Mise tutto al suo posto e pensò in che pasticcio si era cacciato Giulio. Non disse nulla ad Anna per non spaventarla. Cominciò a seguire il figlio. Vide che si incontrava con due uomini in un bar un po' fuori mano. Si nascose nella macchina ad aspettare. Uscirono tutti e tre e si avviarono verso un furgoncino. Uno di loro aprì lo sportello, prese un pacchetto e lo consegnò a Giulio. Poi i due salirono, misero in moto e andarono via. Il giovane prese la sua bicicletta e, pedalando velocemente, si allontanò. Bruno con la macchina lo seguì. Vide che andava verso casa. Lo lasciò rientrare. Dopo 5 minuti salì anche lui. Anna vide il marito scuro in viso e gli chiese: «C'è qualcosa che non va?» Le rispose: «Ho paura di sì. Lasciami solo con Giulio. Non entrare nella stanza se non ti chiamo. Gli devo parlare». Entrò e, con voce dura che non ammetteva repliche, disse: «Dammi immediatamente quel pacchetto». «Quale pacchetto?» rispose Giulio tremando. Bruno aprì il cassetto del comò, prese la busta con il denaro, la aprì e gliela gettò in faccia gridando: «Sei un verme! Come hai potuto fare una cosa del genere?» Prese il pacchetto e lo aprì. Purtroppo era proprio ciò che si aspettava: droga. Disperato, papà Bruno si sedette sul letto. Si prese la testa fra le mani e pensò: che cosa devo fare ora? Come lo dirò ad Anna? Guardò il figlio con rabbia e disse: chiederò il trasferimento prima che ti arrestino. Andremo via da Bolzano, dove nessuno ti conosce. Giulio, piangendo, chiese perdono al padre. Capì il dolore che gli aveva dato e gli disse: papà, hai ragione tu che è meglio partire. Non è facile uscire dal giro. È gente cattiva quella. Però questo pacchetto lo devo consegnare, altrimenti mi faranno del male. Dirò loro che non mi presto più. L'indomani, Giulio prese il pacchetto e lo portò al destinatario. Gli disse: questa è l'ultima volta che faccio una consegna. Non ho intenzione di continuare. Comincio ad avere paura di essere sorvegliato. L'uomo lo guardò in modo strano, poi rispose: va bene, ragazzo, se non te la senti più, ritirati. Poi si rivolse ai due uomini che erano lì con lui e disse loro: accompagnate il ragazzo a casa. Bruno, con ansia, aspettava il ritorno del figlio e pensava: ce ne andremo in un'altra città. Lo porterò via, lontano da quella gente. Dimenticheremo questa brutta storia. Le ore passavano e Giulio non rincasava. Il padre cominciava a preoccuparsi. Anna, che non sapeva nulla di quello che era successo, chiese: non volete mangiare oggi? Chiamò Sandra a voce alta, che arrivò subito e le rispose: io ho fame, non ho fatto merenda stamattina. Come mai mio fratello non è ancora arrivato? È in ritardo, commentò la madre. Trascorsero alcune ore e di Giulio nessuna notizia. Anna, preoccupata, disse: gli è successo sicuramente una disgrazia, non è da lui lasciarci senza notizie. Nemmeno una telefonata. Bruno, fai qualcosa, non stare lì impalato. Chiama l'ospedale, vedi se è stato ricoverato. Bruno le rispose: stai tranquilla, non ti agitare, ci vado io personalmente. Uscì di casa e dalla strada con il telefonino chiamò l'ospedale per accertarsi se il figlio fosse stato ricoverato. Gli risposero che non risultava nessun ricovero con quel nome. Prese una decisione. Non c'era altro modo per rintracciare il figlio. Si recò alla caserma dei carabinieri e ricevette un brigadiere al quale raccontò tutta la storia e gli disse: ho paura che gli abbiano fatto del male, vi prego, trovatelo. Vada a casa, maresciallo, appena avremo notizie la chiameremo. I carabinieri si misero subito alla ricerca di Giulio. Aveva dentro di sé un'angoscia, doveva informare ormai la famiglia. Bruno si fermò sulle scale, non aveva il coraggio di entrare in casa. Si sedette su di uno scalino a pensare alle parole da dire. Si decise. Entrò. Anna e Sandra gli corsero incontro. Hai notizie? Chiese la moglie. Non farmi stare in pena. Dimmi cos'è accaduto, sei stato all'ospedale. Sì, rispose il marito, ma non risulta ricoverato. Ho fatto la denuncia della sua scomparsa ai carabinieri. Ma allora la cosa è grave, intervenne Sandra. Ho paura di sì, rispose il padre. In silenzio si interrogarono con gli occhi. Il suono del telefono li fece sobbalzare. Bruno si alzò di scatto dalla sedia e corse a rispondere. Quando abbassò la cornetta, era pallido come un morto. Andò verso Anna, la prese fra le braccia e la strinse forte, senza dire una parola. La moglie capì e urlò: dimmi che non è vero, che non è vero! Lui annuì con le lacrime agli occhi. Anna svenne. Bruno e Sandra la distesero sul divano, cercarono di rianimarla con spruzzi d'acqua fresca. Sandra, tra le lacrime, chiese: papà, dimmi cos'è accaduto? Com'è morto Giulio? Sottovoce il padre le rispose: ne parleremo dopo, io e te da soli. Ora pensiamo alla mamma. Anna si rimprese, singhiozzava e continuava a chiamare il nome del figlio. Non riusciva a convincersi che non c'era più. Bruno venne chiamato dai carabinieri per il riconoscimento della salma. Quando lo vide scoppiò in lacrime, lo avevano massacrato di botte, pensò. Povero figlio mio, come ti hanno ridotto. Nel suo dolore augurò che i figli di quegli assassini morissero tutti. Ritornò a casa sconvolto, raccontò ad Anna che Giulio era morto in un incidente, investito da una macchina. Volle lasciare alla madre il ricordo di un bravo ragazzo onesto. Andò nella stanza di Sandra, che era sul letto e piangeva. A lei raccontò tutta la verità su suo fratello. Volle sapesse che quando si prende una brutta strada è difficile tornare indietro. Le disse: vedi Sandra, il denaro facile è sempre sporco. La ragazza capì cosa voleva dirle il padre e tra le lacrime, scuotendo la testa, a noi. Io ringrazio ancora gli amici attori che hanno intensificato la drammaticità dei racconti. Ecco, diciamo, il primo che hanno sentito, la sposa, ha tutto sommato una, pur nel climax drammatico che c'è, diciamo, la vicenda si scioglie, tra virgolette, si scioglie con l'agnizione, cioè con il riconoscimento che il marito, diciamo, è gay, no? E quindi lo trova a letto col, diciamo, con l'altro, non con l'altra, come nella situazione più convenzionale. E in questo ambiente che Angermayer, che Johanna Angermayer narra e descrive, evidentemente c'era un tipo di pregiudizio, no? Verso l'omosessualità. Loro sanno peraltro che solo poco più di 10 anni fa l'omosessualità è stata derubricata dalle malattie. L'Associazione Internazionale per la salute, la sanità, riteneva appunto negli ICD-10 non c'è l'omosessualità. In edizioni più vecchie dell'ICD, insomma, la classificazione dei disturbi psicofisici, diciamo, l'omosessualità era ancora contemplata, immaginatevi un po'. Ecco, anche qui il crescendo è chiaro, il crescendo drammatico c'è, non si capisce, diciamo, perché il marito, diciamo, non consumi il matrimonio, però ecco, non c'è alcun compiacimento nella descrizione. Questo è molto importante. E diciamo, anche nel finale l'autrice riesce assolutamente a sdrammatizzare, a non diciamo insistere in modo appunto morboso, insistere in modo scioccamente giornalistico. Per carità, chapeau ai giornalisti, ma spesso ricorderò sempre e ancora in attività un giornalista dell'Alto Adige che si occupa di nera e giudiziaria, qui del giornale Alto Adige, non farò il nome, che scriveva: lo squallido mondo degli omosessuali. Io una volta gli ho detto: senti, forse sarebbe meglio diciamo rinunciare a queste espressioni un po' colorite, un po' pruriginose, un po' così anche offensive verso diciamo chi ha un certo tipo di vita e ha un certo tipo di tendenza che non è innaturale, no? Perché notoriamente anche gli animali, in certi animali, parte diciamo, gli animali che sono decisamente ermafroditi, cioè hanno in sé la componente maschile e quella femminile, però ce ne sono anche altri che praticano diciamo, l'omosessualità. Ora, ecco, nessun compiacimento e però neanche nessun peana, no? Quello che dà fastidio a me personalmente, non so se anche a voi, è l'esaltazione, no? Io una volta ne parlavo con Paolo Poli, il grande attore, autore teatrale che notoriamente è gay, né lo nasconde, anzi insomma, e anche lui per esempio non ama i gay pride, no? Queste esibizioni che spesso ci sono, che io peraltro rispetto, non mi piace diciamo, quando diventa uno show, quando diventa un'esibizione, credo così sia anche per voi, come peraltro non apprezzo grandemente anche le esibizioni diciamo, di nudo eccetera, anche dove poi non sappiamo fino a dove inizi la pornografia e dove finisca l'arte, no? Sicuramente i corpi possono essere belli, ma l'esibizione eccessiva diciamo viene ad essere un qualcosa di spesso anche inutile, retorico, perché più o meno si è visto tutto, no? Grosso modo viviamo in un mondo in cui si è visto tutto, quindi non c'è bisogno di vedere ancora di più, io credo. Non credo di essere un bacchettone terribile, insomma, però ritengo che talora sia abbastanza inutile, no? Pensate a tutto il Bailan sulla questione, non so, recente, no? Degli scandali più o meno veri, non mi interessa neanche saperlo, no? Che riguardano uomini politici o personaggi dello spettacolo o altro. Ecco, tutta questa esibizione che si dà sui giornali, no? Con registrazioni, ecco. C'è veramente chi legge e viene attanagliato da queste cose, viene attratto non eventualmente dai problemi politici, etici che stanno dietro alla cosa, ma dal fatto in sé. Allora evidentemente c'è un qualcosa che non va. Tutto questo è accuratamente evitato da Luana Angermayer, che evita anche una conclusione, non so, che andrebbe bene forse per paesi dove le nozze gay sono, diciamo, questione normale e accettata come diciamo, qualcosa di consuetudinario, diciamo, di quotidiano. E evita però soprattutto una condanna, perché la condanna sarebbe un atteggiamento francamente assurdo, no? Ricordo che Luana in un'opera pittorica aveva mostrato anche un rapporto sartico, no? Avevi sdoganato, mi si scusi l'espressione che non mi piace peraltro, ma insomma ormai è entrato nell'uso. E ecco, decisamente più pericoloso, perché tutto sommato la sposa è un racconto elegiaco, diciamo, no? Elegiaco drammatico, ma ha una partenza elegiaca che poi si svela non essere tale, per ovvi motivi. Ma diciamo la ecco, più pericolosa sarebbe stato l'altro fatto di cronaca che diviene racconto, quello narrato nella polveriera. Nella polveriera c'è un climax che c'è un crescendo che ha tre momenti di fondo. Il primo è il trasferimento, meglio i trasferimenti. poi lo scoppio della polveriera che i protagonisti evitano, e il culmine, diciamo, anzi poi il passaggio intermedio, se vogliamo, è il fatto appunto che il ragazzo, il figlio della coppia, diventi un corriere della droga, e naturalmente il culmine viene raggiunto con la morte della persona stessa. Ecco. Qui sarebbe stato pericolosamente facile cedere alla tentazione appunto del compiacimento giornalistico o insomma del compiacimento cronachistico, nel senso della cronaca nera, oppure naturalmente il finire in una sorta di giallo, nulla di più inopportuno, perché si parla tutto sommato di persone che hanno sbagliato, ma evidentemente che cui una chance ulteriore la vita potrebbe dare e non dà, perché appunto i mandanti non perdonano, e qui si vede, no? Ecco, se tutto questo fosse stato descritto con un'esibizione di suspense, con una, diciamo, con un laborio anche magari abile di suspense, l'aspetto umano evidentemente ne avrebbe sofferto fatalmente. Ci saremmo trovati in un hard boiled, in una narrazione magari molto avvincente, però diciamo che cosa rimane poi dei valori umani. Ci sono alcuni scrittori, soprattutto americani, che riescono a contemperare, pochi però, che riescono a contemperare i due aspetti, no? Con narrazioni addirittura. Se qualcuno conosce o il romanzo che si chiama Mystic River, in realtà è un fiume, no? River è un fiume. Ma esiste un fiume di questo tipo, o ha visto la bellissima trasposizione cinematografica che ha fatto Clint Eastwood anni fa, ecco, addirittura con toni dostoevskiani, no? Ma queste sono eccezioni. In genere il romanzaccio, con tutto rispetto per carità, ci sono autori anche, li abbiamo presentati anche con l'ASA, no? Autori di notevole spessore, però ce ne sono altri che invece si fermano alla compiacenza morbosa e diciamo a rigirare il coltello nella piaga, cosa appunto che Luana Angramaier evita completamente. Evita in questo caso anche la suspense, perché sarebbe inopportuna, sarebbe un qualcosa appunto di aggiuntivo, di inutile in realtà per la narrazione. Quindi diciamo, se la questione narrata nella sposa era una questione tutto sommato consueta, no? Può succedere, e diciamo l'omosessualità non è assolutamente nulla di deprecabile, però ecco, trovandoci di fronte all'altro problema, quello dello spaccio e della, diciamo, diffusione della droga in un mondo in cui adesso lascio perdere le questioni proibizionismo, antiproibizionismo, io dico la verità, io mi troverei in grandissima difficoltà. Io quando sento amici antiproibizionisti, ma il problema, se si liberasse da un momento all'altro la droga, io non so cosa succederebbe, la diffusione della droga. Quindi la questione credo sia da vedere in termini abbastanza seri. Personalmente io non ho poi grandi se qualcuno ci casca, diciamo, in questa spirale del è da comprendere umanamente, ma io sono anche convinto che sic stantibus rebus, stante, diciamo, l'attuale sistema, una condanna ci stia anche bene, possa assolutamente starci. Ecco, tutto questo problema è evitato. Passiamo agli ultimi due racconti, e qui appunto Campo Profughi e mia nonna Isabella, anzi mia nonna Isabella prima e Campo Profughi dopo. Ecco, Loana Angermar, come anche dimostra il cognome, è di origini istriane e di origini mitteleuropee, ma soprattutto una persona che si è trovata a viaggiare molto per appunto spostamenti della famiglia e spostamenti in genere, no? Spostamenti necessitati per motivi di lavoro. Tutto questo tema viene fuori in modo, direi, assolutamente importante, sia in appunto in mia nonna Isabella, addirittura c'è il viaggio, non viaggio, il trasferimento intercontinentale, cioè una famiglia che si sposta negli States, e poi il ritorno, e Campo Profughi invece è il sogno, diciamo l'American Dream, ma mediato tramite un campo profughi, che è quello che consente in qualche modo. Ecco, anche qui siamo più di fronte all'elegia, ma nessuna compiacenza, nessuna, ecco, vedranno poi loro stessi i sentimenti allo stato puro. Mia nonna Isabella. Isabella era la tipica bellezza siciliana, capelli e occhi neri. Nel piccolo paese molti giovani la corteggiavano. A lei piaceva Salvatore, un giovane contadino che lavorava per la sua famiglia. Il padre di Isabella aveva notato quella simpatia e aveva detto alla figlia di stare alla larga da quel ragazzo. I due giovani si frequentavano di nascosto. Nacque tra loro un amore profondo. Quando i genitori di lei se ne accorsero, successe il finimondo. Il padre intimò al giovane di stare lontano dalla figlia, altrimenti sarebbero stati guai per lui. Non fece più uscire Isabella da sola. La ragazza cercò di parlare con la madre, sperando in un'alleata, ma lei fu inflessibile e le disse: «Noi siamo una famiglia in vista, non voglio che mia figlia sposi un contadino, per di più un nostro dipendente. Ti rendi conto di cosa direbbero i nostri parenti e gli amici? Tuo padre troverà un marito adatto a te». Isabella era disperata, piangeva nella sua stanza e pensava come vedere il suo Salvatore. Il giovane fu licenziato e dovette per lavoro lasciare il paese, ma nel suo cuore c'era sempre Isabella. Amava quella ragazza dagli occhi neri e profondi e non sapeva darsi pace. Trascorse del tempo, i due giovani innamorati non riuscirono più a vedersi. Un giorno papà Filippo chiamò Isabella, gli fece una carezza sui capelli e con fare paterno le disse: «Ti ricordi di Francesco, il figlio del mio amico Giovanni? Quello che da bambina ci giocavi insieme?» «Sì, me lo ricordo. Era un ragazzino vivace, aveva 3 anni più di me. Si trova in America, se non mi sbaglio». Rispose il padre: «Sì, proprio lui. Ora si trova a New York. Mi ha scritto il mio amico chiedendomi la tua mano. Suo figlio ha espresso il desiderio di sposarti, vuole sposare una del suo paese e si è ricordato di te». «Stai scherzando, papà? Non se ne parla nemmeno. Un uomo che neppure conosco. Sono trascorsi degli anni, non ricordo neanche la sua faccia». «Ascolta, Isabella, è un bravo giovane ed è anche un buon partito. La sua famiglia ha fatto fortuna in America, andrai a star bene». «Ma io non voglio sposarmi». Entrò nella stanza sua madre e le si rivolse con voce severa: «Non fare la bambina, lo sposerai e andrai in America. Dimentica quello spiantato che non fa per te. La ragazza protestò, pianse, ma i suoi genitori furono irremovibili. Un'amica la informò che Salvatore era partito per la Germania in cerca di lavoro e chissà quando sarebbe ritornato. Isabella allora si arrese alla volontà del padre e accettò di sposare Francesco. Si sposò per procura, una giornata triste per Isabella. Aveva sognato ben diverso il suo matrimonio. Dopo un brindisi con i testimoni, il padre l'accompagnò al porto per imbarcarsi sulla nave che l'avrebbe portata in America da suo marito. Con gli occhi pieni di lacrime salì a bordo. Non si girò a salutare suo padre, non gli perdonava di averla messa in quella situazione. La nave salpò, si ritirò nella sua cabina, non volle vedere che si allontanava da tutti e dalla sua terra. All'ora di pranzo andò al ristorante, ordinò una pasta al pomodoro, ma aveva lo stomaco chiuso. Pensava a ciò che lo attendeva, un marito sconosciuto che avrebbe dovuto vivere insieme a lei. Appoggiò la forchetta sul piatto. Il cameriere pensò che avesse finito di mangiare e le portò via il piatto, così rimase anche senza la pranzo. Il viaggio durò un mese tra cielo e mare. Venne il giorno dell'arrivo e la nave entrò nel porto. Isabella, preoccupata, non sapeva cosa fare. Si nascose. Non voleva scendere a terra. Francesco, che l'aspettava e non la vedeva, salì sulla nave e dovette andare dal comandante per chiedere sue notizie. Dopo un'ora finalmente la rintracciarono. Il giovane la prese per un braccio, la strattonò e con gli occhi adirati la rimproverò. «Ma cosa ti è saltato in mente di fare una cosa simile? Ti prenderei a schiaffi!» Salirono silenziosi sull'auto e si avviarono verso la casa che Francesco aveva preparato per loro. Lei rincattucciata nel suo sedile e lui la sbirciava. Mentre guidava pensò «Com'è bella la mia sposa!» Ha gli occhi bellissimi come quando era bambina, la bocca rossa e carnosa. Mi farò amare da lei. Ora è spaventata, ci vorrà un po' di tempo. Francesco era un giovane intelligente, capiva il disagio di sua moglie, le carezzò i capelli e le disse: «Non aver paura, non sono un orco, vedrai che ci troveremo bene insieme. C'è anche mia sorella Lisetta, diventerete amiche. Uscirete a fare spese, qui non siamo in Sicilia, le donne sono indipendenti, ti piacerà questa nuova vita». Isabella ascoltava in silenzio il marito e cominciava a rassicurarsi. Lo guardò, era bello Francesco, non aveva nulla del bambino che giocava con lei, si era fatto un uomo, gli occhi dallo sguardo profondo le piacevano. Cominciò a sentirsi più a suo agio e si rivolse a lui. «Scusami, ma ero spaventata. È successo tutto così in fretta. Cercherò di essere una brava moglie». Dal loro matrimonio nacquero 4 figli, Angelo, Daniele, Rita e Anna. Dopo alcuni anni Francesco e Isabella decisero di ritornare in Italia, al loro paese. Ma tutto era cambiato, non c'erano più quei legami che avevano pensato di trovare. L'uomo decise con moglie e figli di trasferirsi in una città, scelse Pola, in Istria. Si trovarono bene, la gente del posto era molto affabile. Aprì un negozio di calzature, i figli lavoravano con lui, gli affari andavano bene. Anna si era fatta una bella ragazza, aveva molti ammiratori. Sua madre Isabella le diceva sempre: «Figlia mia, scegli con il cuore un uomo che tu ami e lui ami te. La vita è lunga, ma con l'amore si superano tante difficoltà». Isabella voleva che sua figlia fosse felice, non come lei che quando era giovane aveva dovuto rinunciare al suo amore per volontà dei genitori. Malgrado fossero passati molti anni, lei pensava ancora a Salvatore. Pensò: «Per fortuna i tempi sono cambiati e le donne possono scegliere il loro marito». Anna si era fatta delle amiche e spesso andavano al mare. Fu proprio sulla spiaggia che conobbe Andrea. Era un ufficiale dell'esercito. Nacque subito una simpatia fra i due giovani che si tramutò presto in amore. Si fidanzarono e nel giro di un anno si sposarono. Dal loro amore nacqui io, Lucia. Avevo 10 anni quando mio nonno Francesco si ammalò. Nel giro di poche settimane morì. Nonna Isabella venne a vivere con noi. Mia madre la sistemò nella mia stanza. Non ero molto contenta di questa soluzione, ma con il tempo mi affezionai alla nonna. Era così simpatica e mi voleva bene. Copriva tutte le mie marachelle. Era mia complice. Mi raccontava tante storie. Mi parlò della sua vita e che sentiva la mancanza degli altri figli. Mi parlò anche del suo amore che non aveva potuto sposare. Venne la guerra. Pola diventò Jugoslavia. Mio padre fu subito trasferito, lo mandarono a Lecce, nelle Puglie. Nonna venne con noi. Eravamo profughi, avevamo perso tutto. La nostra bella casa, con il giardino. Bisognava ricominciare tutto da capo. Mia madre era quella che ne aveva più risentito di quella situazione. Il suo viso era triste. Mio padre cercava di rassicurarla che questo momento sarebbe passato. Gli zii, che nel frattempo erano ritornati in America, chiesero alla nonna di partire e andare a vivere con loro. Dispiaceva alla nonna di andare via, ma, vista la situazione familiare, pensò di raggiungere i figli. Piansi molto quando partì, le volevo tanto bene, e per lungo tempo mi mancò molto. Dopo 3 anni morì anche mia madre. Fu nell'età in cui avevo più bisogno. Mio padre era distrutto, Anna era la sua vita, l'aveva amata tanto, lo sentivo piangere nella sua stanza, come avrei voluto avere vicino nonna Isabella, mi sentivo tanto sola. Trascorse qualche anno, nonna mi scrisse una lunga lettera, mi raccontava della fortuna che le era capitata. Cara nipote, tu non puoi neppure immaginare cosa mi è accaduto. Un giorno per la strada ho incontrato Salvatore, il ragazzo che amavo da giovane. Anche lui era emigrato in America. Ci siamo abbracciati e raccontati tutto della nostra vita. Si era sposato, ora era vedovo. Il destino ci ha fatto di nuovo incontrare. Tutto quello che non abbiamo potuto avere da giovane, ora ci riprendiamo la rivincita. Abbiamo deciso di sposarci. Finalmente coroniamo il nostro sogno d'amore. Verremo in viaggio di nozze in Italia, così potrò riabbracciarti e farti conoscere mio marito. Fui felice per lei, pensai, nonna Isabella, sei forte, sei una donna straordinaria. Un giorno mi trovavo sul mio terrazzino, quando vidi entrare dal cancello una signora con un vestito a fiori e un largo cappello di paglia con delle rose rosse. Pensai, ma com'è eccentrica quella donna? Alzò il viso. Era nonna Isabella. Mi vide con un bel sorriso, salutò in inglese «Hello, hello!» Le andai incontro sulle scale, ci abbracciamo felici. Era sempre uguale. Sembrava che il tempo non fosse trascorso per lei. Mi presentò il suo Salvatore. Era ancora un bell'uomo. Da giovane doveva essere stato molto, molto affascinante. Mi raccontarono le loro avventure e Salvatore diceva che la nonna era una canita giocatrice di carte, coinvolgeva tutti gli amici a giocare. Ogni giorno devo fare con lei almeno una partita, altrimenti non mi lascia in pace. Sorridevo perché mi ricordavo che quando ero bambina mia madre doveva sempre giocare con lei. Trascorsero i giorni troppo in fretta. Nonna e Salvatore dovevano ripartire. Mi dispiaceva molto e pensavo, chissà se l'avrei rivista ancora. Eravamo da una parte all'altra del mondo. Ci salutammo con un forte abbraccio. Piangendo, la nonna mi strisse forte, forte a sé. Forse anche lei pensava che era l'ultima volta che ci vedevamo. 3 anni dopo, fu un triste giorno, lo zio Daniele mi telefonò dall'America. Nonna Isabella era morta. Era caduta dalle scale, non si era più ripresa e non c'era stato più nulla da fare. Lo zio mi disse che avevano esaudito il suo ultimo desiderio. Le avevano messo un mazzo di carte nella bara. Lei diceva sempre: quando andrò nell'aldilà, sicuramente troverò qualcuno che giochi con me. Il campo profughi. Renato, un quarantenne rimasto vedovo da 6 mesi, con la figlia quindicenne Livia, si sentiva molto solo. La casa gli sembrava vuota, soprattutto quando la ragazza era a scuola. Un silenzio che gli dava tanta tristezza. Non sentiva più la risata allegra di sua moglie Lucilla e pensava: perché il destino è stato così crudele con me? Eravamo così felici. Livia, in un'età che avrebbe avuto bisogno della madre. Io sono un uomo che mi trovo un po' a disagio e si era sempre occupata lei della figlia. Pensieri che ogni giorno lo tormentavano. L'uomo era anche preoccupato per la conferma del suo posto di lavoro. Si parlava di licenziamenti. La ditta per la quale lavorava si trovava costretta a licenziare del personale. Renato aveva paura perché era uno degli ultimi assunti. Per scacciare questi pensieri andò al telefono e chiamò il suo amico Franco. Erano amici da molti anni. Si erano ritrovati a Trento dopo che erano fuggiti durante la guerra in Jugoslavia. Molti istriani si erano spostati verso Trento o Veneto. I due amici si dettero appuntamento al bar. Erano sempre contenti quando si incontravano. Ricordavano la loro città, i bei tempi quando andavano a vedere le opere all'Arena di Pola e le lunghe passeggiate con le famiglie nei meravigliosi giardini. Come era tutta cambiata la loro vita. Franco gli chiese: come stai? Come va il lavoro? Ho sentito che la tua vita è in crisi. C'è pericolo per te? Renato con un sospiro rispose: purtroppo sì. Sono molto preoccupato. Ho una figlia da mantenere. Se perdo questo lavoro, non so dove andrò a sbattere la testa. Sai, disse l'amico, ho sentito dire che c'è un campo profughi a Bagnoli, in provincia di Napoli. Se uno volesse emigrare all'estero, potrebbe tentare di fare fortuna. Ci si potrebbe pensare, rispose ridendo Renato. Ora ti devo salutare. Devo andare a preparare il pranzo a Livia che sta per ritornare da scuola. Mentre camminava verso casa, gli ronzavano nella testa le parole del suo amico. Andare all'estero. Una nuova vita per lui e sua figlia. Non sarebbe una brutta idea. Apparecchiando la tavola, su quel pensiero gli tornava in mente. Sbirciò dalla finestra e vide arrivare Livia, la sua figuretta snella. I suoi capelli biondi gli ricordavano la sua amata moglie. Distolse quel pensiero che lo faceva soffrire. Andò ad aprire la porta. «Cosa mi hai preparato di buono oggi, papà?» chiese la figlia baciandolo sulla guancia. «Cose buone che ti piacciono. Poi vorrei parlarti di una cosa che dovremmo decidere insieme», rispose il padre. Mentre mangiavano, Renato chiese a Livia se le fosse piaciuto partire da Trento e andare lontano. Quanto lontano? Chiese lei. In America. Ti sembra molto lontano? Chiese sorridendo l'uomo. Conosceremo nuova gente. Io troverò un lavoro più redditizio. Che ne dici? Sono molto sorpresa, papà. Questo non me l'aspettavo. Lasciami pensare un po' fino a domani. Renato si ritirò nella sua stanza e pensò: forse le sto chiedendo troppo, non vorrà lasciare i suoi amici, la sua casa. Il mattino seguente Livia non si alzò alla solita ora per andare a scuola. Il padre bussò alla porta della sua camera pensando che si fosse addormentata. La ragazza aprì la porta sorridendo. Non vado a scuola oggi, dobbiamo parlare della partenza. Renato, sorpreso di questa sua decisione, preparò allegro la colazione. Parlarono delle cose da sistemare. Decisero il giorno della partenza. fecero le valigie, salutarono gli amici. Arrivò il momento di andare. Padre e figlia si recarono alla stazione. Era freddo quella mattina, ma erano talmente euforici che non lo sentirono. Il treno partì per un viaggio di speranza. Arrivarono a Bagnoli. Si recarono al campo profughi. Gli chiesero i documenti, videro che Livia era minorenne e dissero a Renato: «La ragazza deve andare alla casa dei giovani fino al giorno di partenza. Lei invece vada al padiglione C». Il padre intervenne: «Ma io non voglio separarmi da mia figlia». Rispose l'uomo: «Guardi che va a stare meglio. Il vitto è migliore, anche le stanze sono seguiti da insegnanti di lingua inglese e spagnolo. E poi sono tra giovani. Lei può andare a trovarla quando vuole». Renato, rassicurato, si recò con la figlia alla casa dei giovani. Li accolse la direttrice con un sorriso gentile e si rivolse a Livia: «Vedrai che qui ti troverai bene, ti farai delle amiche». La accompagnò in una stanza dove c'erano 6 letti e le assegnò il suo. Il padre la salutò e andò a sistemarsi al suo padiglione. Lei si guardò intorno. Era sola. Sistemò la valigia. Suonò una campanella, si sentì un chiacchierio lungo il corridoio. Entrarono nella stanza 5 ragazze. La guardarono con curiosità. Una di loro chiese: «Sei nuova? Da dove vieni?» «Vengo da Trento», rispose Livia. «Vieni, andiamo a pranzo!» Scesero le scale e arrivarono in uno stanzone apparecchiato con lunghi tavoli e delle panche. Le ragazze si sedettero. Livia, imbarazzata, rimase in piedi. Non sapeva dove sedersi. Un giovane le fece il cenno di sedersi accanto a lui. Prese posto. Rossa in viso, si trovava a disagio. Portarono i piatti con la pasta. Lei, silenziosa, cominciò a mangiare. Il ragazzo che l'aveva fatta sedere accanto a lui la guardava, gli faceva tenerezza, quella ragazzina dagli occhi di cerbiatto e la bocca da bambina. Si rivolse a lei: «Come ti chiami?» «Io mi chiamo Giorgio», lei rispose timidamente. «Io Livia». Giorgio aveva quasi 18 anni, era orfano di genitori e andava a raggiungere suo fratello in California. Figlio di un russo e di una giapponese, era bello l'intreccio di razze che gli aveva dato dei lineamenti particolari. Chiese alla ragazza: «Quanti anni hai?» 15, rispose lei. «Sei piccola», commentò il ragazzo. Dopo il pranzo, i giovani si ritiravano in una biblioteca dove studiavano, leggevano o giocavano a dama o a scacchi. «Vieni», le disse Giorgio. «Facciamo una partita a scacchi». E la guidò verso un tavolino. «Mi spiace, non so giocare», disse Livia. Il giovane la guardò e sorrise. Quella ragazza aveva un viso pulito, ingenuo. Pensò: «Com'è bella!» «Ti insegnerò io, siediti! Sono un esperto di scacchi», le disse sorridendo. Diventarono inseparabili. Ogni momento libero erano insieme. Questa loro amicizia suscitò la gelosia di Mariana, la compagna di stanza di Livia. Prima che la ragazza arrivasse, le attenzioni di Giorgio erano rivolte verso di lei. Mariana la guardava con rabbia e non le rivolgeva la parola. Livia non capiva il perché di questo atteggiamento. Una sera, quando le giovani si ritirarono nella loro camera, Gigliola, una compagna di stanza, le fece un gesto con lo sguardo verso il suo letto. Livia capì che c'era qualcosa che non andava. Sollevò le coperte e vide un topo morto. Lo schifo e la rabbia fece della ragazzina una tigre. Capì che era stata Miriana. La ragazza era a letto. Le balzò sopra e cominciò a schiaffeggiarla. Intanto le altre ragazze si lanciavano il topo l'una contro l'altra, urlavano e ridevano. Tutto questo rumore attirò sulla porta l'insegnante di inglese. La sfortuna volle che il topo lanciato finisse proprio in faccia a lei. Il suo urlo fece arrivare la direttrice. Successe il finimondo. Renato, un giorno, si sentì improvvisamente male. Fu ricoverato in ospedale. Gli dissero che doveva essere operato all'intestino e che purtroppo non sarebbe guarito prima di un mese. Capì che poi non l'avrebbero più fatto partire. Era disperato. Pensava, quando uscirò dall'ospedale, come faremo? Cosa dirò a Livia, che è piena di entusiasmo per questo viaggio e che dovremo rinunciarvi? Chiuse gli occhi. Stava male. Livia aveva saputo del padre ed era molto preoccupata, ma le dissero di stare tranquilla, che non era nulla di grave. Giorgio, quando vedeva la ragazza che parlava e scherzava con qualche giovane, era geloso, si era innamorato di lei, ma in cuor suo sapeva che non c'era futuro per loro. Lui sarebbe andato in California, a San Francisco, e lei chissà dove. La direttrice organizzò una festa da ballo e invitò degli ospiti inglesi. Fece addobbare alle ragazze la biblioteca con festoni e dette loro per l'occasione degli abiti da sera. A Livia diede un abito rosso da spagnola e un fiore da mettere tra i capelli. Alla ragazza sembrava di essere vestita in maschera. Cominciò la festa. Arrivarono gli ospiti, 4 vecchi e 2 attempate signore. La direttrice si mise al pianoforte con aria da grande pianista. Cominciò a suonare e cantare. Era più stonata di una campana. Giorgio invitò Livia a ballare. Ah, finalmente poteva stringerla fra le braccia. Sentiva il suo corpicino esile e gli dava tanta emozione. La ragazza, per la prima volta, sentiva il suo cuore battere per un ragazzo, ma pensò, non mi devo illudere. Tra non molto ognuno andrà per la sua strada. Renato uscì dall'ospedale. La sua testa era in fiamme, 1000 pensieri lo assillavano. Andò ad informarsi per la partenza, ma, come aveva previsto, non poteva più partire. Gli dissero chiaro e tondo che partivano uomini solo in buona salute e che ora che era uscito dall'ospedale, lui e la figlia dovevano lasciare il campo profughi. L'uomo era disperato. Cosa farò adesso? Non ho denaro, non ho una casa, come farò con Livia? Si prese la testa tra le mani e pianse. Andò dalla figlia e con dolore le spiegò la situazione. Lei lo guardò incredula. Ora che facciamo, papà? Dove andremo? Quanto tempo abbiamo per andare via di qui? Abbiamo 3 giorni di tempo, rispose il padre. Renato abbracciò la figlia e per consolarla le disse: non ti preoccupare, qualcosa faremo. La salutò. Aveva un forte mal di testa. Andò a buttarsi sul suo letto, pensava quale soluzione prendere. Cominciò a parlare alla moglie come se fosse di presente. Lucilla, amore mio, vedi cosa sta succedendo? Se tu fossi qui, cosa faresti? Si addormentò esausto. Il suo sonno era agitato. In sogno venne Lucilla. Lo accarezzava, gli sorrideva e gli disse: amore, sono venuta in tuo aiuto. Domani vai a giocare questi numeri sulla ruota di Milano. Metti una quaterna secca. Risolverai tutti i tuoi guai. Quando Renato si svegliò, pensò al sogno e si disse: sono talmente disperato che mi sogno anche i numeri. Si alzò e uscì. Andò in paese per vedere se trovava un lavoro provvisorio, da guadagnare qualche soldo per potersi muovere. Entrò in un bar e chiese al cameriere se sapeva se c'era qualcuno che desse del lavoro anche a ore. L'uomo rispose: provi con quel signore seduto a quel tavolo lì. Renato si avvicinò all'uomo che stava leggendo il giornale e gli chiese: scusi se la disturbo, mi hanno detto di rivolgermi a lei, che forse mi può aiutare a trovare un lavoro. L'uomo lo guardò e gli rispose: ci sarebbe un lavoro se si sente di farlo. Si tratta di andare da una famiglia a vestire un morto. Renato lo guardò stupito. Vestire un morto? Sì, anche i morti devono essere vestiti. Pagano bene per questo lavoro. poi quelli non si lamentano. Renato pensò: non è proprio quello che cercavo, ma in fondo anche questo è un lavoro. Va bene, mi dia l'indirizzo. Si avviò per la strada e pensava: ha detto che pagano bene, ho bisogno di denaro. Arrivato, suonò il campanello. Venne ad aprire un uomo. Renato gli disse che lo mandava il signor Guidi per il defunto. Venga con me, disse il padrone di casa, e lo accompagnò nella stanza dove giaceva il morto. Guardi, lì ci sono i vestiti, la lascio solo al suo lavoro. Uscì e chiuse la porta dietro di sé. Renato era impietrito. Il morto era sul letto davanti a lui e doveva vestirlo. Stette un po' a guardarlo. Gli faceva impressione solo al pensiero di toccarlo. Strinse i denti e si dette da fare. Lo pagarono veramente bene. Uscì dalla casa e pensò: guarda cosa mi è toccato di fare. Ritornando verso il campo profughi, passò davanti a un tabacchino. Gli vennero in mente i numeri del sogno e si disse: perché non tentare? Entrò. Giocò i quattro numeri sulla ruota di Milano. Il giorno seguente si alzò nervoso. Aveva dormito poco. Mille pensieri gli rozzavano in testa. Fuori dal campo, camminando avanti e indietro sulla strada, attraversando la porta aperta di un bar, vide alla TV l'estrazione del lotto. Ricordandosi della giocata, si fermò. Uno dopo l'altro vennero estratti i suoi numeri. Entrò nel bar ansioso, prese il tagliando, li controllò meglio. La quaterna che gli aveva dato in sogno Lucilla si era realizzata. Fece un urlo e un salto di gioia. La gente lo guardò, uno disse: è ubriaco. Di corsa uscì dal bar e si avviò alla casa dei giovani da Livia. Quando la figlia lo vide così raggiante, lo guardò sbalordita e gli chiese: papà, cosa è successo? Renato rispose abbracciandola: un miracolo! Dal cielo, la mamma ci ha aiutati! Livia non capiva più nulla, pensò che il padre era impazzito. Ma che stai dicendo, papà? Quale miracolo? Che c'entra la mamma? Ti prego, fammi capire! Renato si calmò e le raccontò tutto quello che era accaduto. Tesoro, adesso abbiamo tanti soldi, i nostri problemi sono finiti, potremo fare tutto quello che vorremmo. Se vuoi, andiamo in America. O restiamo qui in Italia. È tanto bella la nostra terra. Decidi tu cosa fare. Livia, ancora frastornata da tutte quelle novità, non sapeva cosa rispondere, poi parlò. Papà, ritorniamo a Trento. Lì ho tutti i miei amici. La ragazza era felice che la loro situazione si fosse risolta, ma pensò che con la sua partenza non avrebbe più rivisto Giorgio. E questo la rattristava. Doveva informarlo. Si recò in biblioteca. Quando lui la vide con il viso serio, le andò incontro e le chiese: è successo qualcosa? Lei rispose con voce triste: sì, devo partire domani. Il giovane sentì una morsa nello stomaco. Sapeva che sarebbe giunto quel momento, ma non credeva che la partenza di Livia gli facesse così male. Il giorno dopo, Renato andò a prendere la figlia. Tutto a posto? Hai preso tutto? Chiese il padre. Sì, papà, devo solo salutare una persona. Dammi 5 minuti, poi andiamo. Cercò Giorgio. Lui l'aspettava ansioso. Lei andò verso di lui, lo guardò con il viso triste e disse: devo andare. Mio padre mi sta aspettando. Ti auguro di partire presto per San Francisco. Lui guardò per l'ultima volta quegli occhi da cerbiatta, le mise in mano un cagnolino di stoffa dicendole: così ti ricorderai di me. Lei lo strinse tra le mani, emozionata. Non si aspettava che mentre si stava avviando alla porta lui la rincorresse. La prese fra le braccia e la baciò sulle labbra, poi velocemente si allontanò. Livia si toccò la mano con la bocca. Era il suo primo bacio. Il padre la vide arrivare con il cagnolino in mano e le chiese: un regalo di una tua amica? lo guardò con gli occhi velati di lacrime. Sì, di una mia amica. Renato non disse nulla, ma capì dal viso della figlia che quel cagnolino era qualcosa di più importante. Bene, ringrazio ancora la nostra autrice, alla quale faccio anche molti complimenti, Eugen Galasso, e soprattutto anche i lettori Laura Andrian e Patrizio Zindaco, che hanno vivacizzato notevolmente la serata. Vi invito a tornare in biblioteca e lascio un attimo il microfono alla signora Angermeyer, se volesse aggiungere qualcosa. Ringrazio molto il professor Galasso, i lettori che sono stati bravi come sempre, la dottoressa Tessa e tutti i suoi collaboratori che ci hanno ospitato, e grazie a tutto il pubblico. Buona serata. No, semplicemente per dire, l'oggetto transizionale, l'ho visto il cagnolino di stoffa, chi non ama gli animaletti, no? Personalmente ne ho non so quanti. Però, tornando al fulcro, diciamo, e anche al senso, punto e a capo, è chiaramente l'espressione tipica della narrazione, appunto, quando scriviamo, punto e a capo, scriviamo con la penna o col computer uguale, però punto e a capo vale sempre, e però vale anche per la vita, no? L'avventura comincia con l'aurora, diceva Jacques Brel, oppure per citare appunto Paul Fort, poeta simbolista non famosissimo, la vie c'est toujours la même chanson, la vita è sempre la stessa canzone, e dice però è amore e amori e miserie, e un po' tutto questo, l'aspetto triste e l'aspetto bello, cioè nei racconti di Noam. Grazie.